Aspetta fino a 20, dai! Da soli 6 euro raggiungi i 2 giga per 3.000. Attento Marco, ci sei in ascolto? Sì, tu cerca Marco, gà. Ui ui. Ehi, ciao, lo sai? Aspetta che ammazzo questa bestia di... Ah già, è vero, ti piace Bonudis, a quest'ora Marco è innamorato di Bonudis. Si guarda Bonudis invece di entrare a parlare in mezzo alla gente, ci vive. E allora, si guarda col maleducato. E vabbè, fatezzi, cosa vuoi fare? Faccia come crede, non ci sono problemi. Sì, va. E sul 23 qualcuno c'è, il passato c'è sì? No, negativo. Ho capito, ma io per l'ascolto adesso ho aumentato il volume, perché stavo guardando il discorso di Siuni. Bella battosta ha preso il PD. Bubu, Renzi si è dimesso comunque. Vabbè, ma non riesco a governare, perché infatti Siuni, con questa legge elettorale è un macello. No, con quelle imbecille degli italiani che hanno dato il voto a 5 Stelle, cosa può capire uno, come fa a diventare il leader della nazione uno che ha 30 anni? Ma vai! Quello, che non è nemmeno laureato ancora, anzi ancora, non si è mai laureato e non si laureerà mai. Che tra l'altro sbaglia anche molti congiuntivi, ascoltalo bene quando parlano, se li sbaglia poco di balaurea. Sì, ha una bella parlantina, questo sì, è giovane, tutto quello che vuoi, è anche una bella persona esteticamente, tutto quello che vuoi, però è uno che non è esperto, come fa a poter avere le pretese di governare l'Italia? Ma dai! Non ha mai fatto un tubo in vita sua, non ha esperienza, cosa vuoi che faccia a quello? Poi sono pericolosi quelli dei 5 Stelle. Sì, sono pericolosi soprattutto perché sono guidati da quel pluripregiudicato di Grillo, soprattutto per quello, paccare dai, sono... Comunque, cosa vuoi dire? Io l'ho sempre detto, il popolo italiano è un popolo di grandissimi imbecilli. Questo è vero, Come hanno fatto a dare i voti a questi grillini non lo so. Pericolosi come sono. Anzi, speriamo che possano governare, se no con chi si allea. No, loro non si allea con nessuno, perché loro col PD non si vogliono alleare. Salvini con loro non si vuole alleare. Casomai potrebbe diventare Salvini, che è quello che merita di più, il presidente del governo, perché è il partito che ha preso più voti, cioè il partito, l'alleanza che ha preso più voti, però non ci sono le condizioni nitide per poter amministrare. Dunque a questo punto adesso sarà il presidente della Repubblica, Mattarella, che le chiederà a loro, a tutti questi, mettetevi d'accordo e saremo a vedere cosa combinate. Se loro non ci riescono a mettersi d'accordo sarà Mattarella poi a formare il governo. Se la pigliamo buona, comunista come te. Appunto, chi devo chiedere è comunista, chi non lo sa così. Mattarella a quel punto lì che può chiamare a governare. Capita, non avrà la bacciaduta di chiamare qualcuno del PD, no? Dal momento che ormai il PD è inesistente, come te ne bisogna più, perché ha preso una battosta madornale. Sì, già lo so, ma la faccia gli manca a quello, corrotto come... È abusivo pure come Presidente della Repubblica, perché quelli che l'hanno letto erano tutti abusivi. Infatti, è così, adesso magari è capace che lui non fa altro che restituire il favore. A parte il fatto che è un mutuo, per conto mio è un uomo che non è all'altezza di fare Presidente della Repubblica. Ha un'espressione così brutta, io lo vedo così, la verità. Oppure un altro magistrato, era la Corte dei Conti questo. E pari suoi che era me, che stiamo andando bene. Comunque, cosa vuoi che dica? Faccia quello che vuole. A me è interessante che mi dica la benzina, non gli avvisi. che tra l'altro mi tocca domani, che se ne affrutti la buia di un litro. Cioè, mi tocca domani, e vado io domani, non è che mi tocca domani, se no mi tocca il giorno 1. Tanti curiarmesi che ti siano di. E beh, non si sa che così, per cui lasciamoli fare. Se lo fate di Beggio, tanto io della politica, pensa che io non ci sono nemmeno andato a votare, e non ci andrò mai più, perché intanto se sarei andato avrei buttato la scheda così in bianco, o perlomeno avrei fatto una croce grande quanto tutta la scheda, avanti, così almeno che passi di vero lo butto. Io sono andato perché sono andato, però guarda, se riesco ad andare in pensione non ci vado più. Ah, io ci sono andato soprattutto per il fatto che ieri stava piovendo tutto il giorno, qui ha piovuto. Ma ti sembra che io uscivo piovendo, ma andavo e dallo butto anche magnacci? Ma manco ba idea, lui. Guarda, io sono sempre andato a votare, ma questa volta non se lo meritavano per conto mio, di uscire piovendo e andare a votare. Ah, te nandi. Sì, ma io già sono andato, ma non stava piovendo quando sono andato, poi sono andato in macchina perché io voto in via Mangiuri. Io ho già voto qui vicino, verso Montetignoso, in quella zona lì. Anch'io sarei andato in macchina. Ma stavo provando tutto il giorno, si stava così bene a caldo a casa. Oia, altro che andare a dare un voto a Eda, che ti magnacci. E allora? Che ti venuti tu, eh? Però... Cosa mi dici, Giù? E di cosa? Non ho capito quello che stava dicendo tua moglie. Stava dicendo, ma allora è tutto finito, Renzi si è dimesso. Sì, Renzi si è dimesso, poc'anzi l'ho sentito io alla televisione. Con lì da Barbaradusso stava, se sono collegati Barbaradusso stava, e l'ha detto Renzi che si dimetteva. La cosa migliore che puoi fare, intanto la guippa era Reddo, di D'Alema, di Bersani, di Cuperlo, di tutti quanti quelli del PD stesso. Si sono azzuffati fra di loro, è chiaro che perdevano, era normale, la situazione era più che evidente che avrebbero perso e preso una bella batosta. Devo chiudere, dai, mia moglie ha acceso la televisione e sta piovendo e quindi non esce e non ne capisco nulla, capito? Ci sentiamo giù, va, alle prossime. Ok, ciao Natalia, alle prossime.